La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, ben trovati. Avete visto che poi aver tenuto questa sigla per tanto tempo, qualche fondamento ha continuato ad averlo con quello che è avvenuto nell'euroarea e così via. Però detto questo, andiamo all'argomento del giorno. Come sempre vi ricordo l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporvi con temi e auto testimonianze se le volete portare voi oppure segnalarcele. E naturalmente andiamo all'argomento della giornata. Ecco, l'argomento della giornata è una riflessione su un aspetto della nostra vita di sudditi pubblici del nostro paese, non di cittadini, di sudditi. I cittadini, come è noto, hanno un corpo di diritti rispetto al quale l'ordinamento giuridico è concepito per la tutela dei diritti dei cittadini verso errori, soprusi, eccessi dello Stato. Da noi è il contrario nell'evoluzione del nostro ordinamento, dal positivismo allo Stato etico, all'idealismo che ha impregnato poi la costruzione dell'ordinamento pubblico italiano, a destra, a sinistra, al centro. Noi abbiamo un ordinamento giuridico che in realtà nasce e si sviluppa nel tempo per tutelare lo Stato, non i cittadini, per consentire allo Stato di esercitare le sue prerogative nei confronti dei cittadini. Allora, questo ribaltamento del rapporto e dello strumento, del rapporto che dovrebbe essere concepito in realtà prioritariamente a favore del cittadino e invece da noi è a tutela dello Stato e dello strumento dell'ordinamento giuridico, ha tra le tantissime sue caratteristiche paradossali un aspetto che riguarda la trasparenza, ed è esattamente di questo che ci occupiamo oggi. Quindi una delle ragioni per cui è dovuta nascere l'autorità anticorruzione affidata al magistrato Cantone, che ha tenuto la scorsa settimana la sua relazione annuale. La trasparenza, cioè in che cosa in realtà si identifica? In un diritto del cittadino. Il diritto del cittadino è quello di avere il pieno accesso a tutte, senza eccezione alcuna, tranne rarissime categorie di atti coperte da riservatezza e segreto, ma per il momento altrimenti dovrebbe essere il pieno diritto all'accesso a tutti i particolari di ogni atto pubblico. Si tratti del governo centrale dei ministeri, si tratti delle autonomie degli enti locali, regioni, ex provincia che rimangono in vita ai comuni, si tratti delle municipalizzate, di qualunque cosa. Ecco, ed è di questo che ci occupiamo oggi, perché questo diritto in Italia in realtà c'è per via di una legge del 1990, molte volte modificata, ma sulla carta. Nella realtà sappiamo che non è così. Vogliamo ricordare solo alcuni degli esempi più paradossali? La scorsa settimana, per esempio, la commissione incaricata, secondo la nuova legge sul finanziamento dei partiti dovuta al governo Letta, la commissione incaricata di verificare i controlli di legittimità sui bilanci dei partiti, 5 magistrati compongono questa commissione, ha dato ai presidenti di Camera e Senato la loro relazione finale dicendo: beh, non abbiamo potuto farli i controlli sui bilanci dei partiti perché la stragrande maggioranza di loro non ci ha dato il resoconto. Oppure da anni abbiamo un dovere per tutte le autonomie di comunicare tutte le società partecipate e controllate al Ministero del Tesoro. Stiamo parlando delle 12.000 municipalizzate, società regionali e così via, e ancora oggi un quinto dei soggetti non comunica a questo albo delle società controllate e partecipate, perché naturalmente non c'è nessuna sanzione per gli inadempienti e così via. Siccome questa è la fotografia che abbiamo di fronte a noi, oggi ci preoccupiamo di capire come si potrebbe cambiare questa situazione, cioè che tipo di intervento bisogna immaginare per garantire a noi stessi il fatto di avere un pieno accesso all'informazione di tutto ciò che avviene nel mondo pubblico. Ecco, e allora lo spunto per questa trasmissione ce l'ha dato un paper, una ricerca, un approfondimento che è stato pubblicato, che poi potete trovare sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, www.brunoleoni.it, ed è con noi per parlarne l'autore Giacomo Levmannheimer, che io ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie Oscar, buon pomeriggio a tutti. Allora, il titolo del suo saggio è, forse fa, potrebbe far capire qualcosa di storto ai nostri ascoltatori, un foglia per l'Italia, però non stiamo parlando di foglia e di sesso. Foglia è l'acronimo, la sigla con cui si identifica il Freedom of Information Act, cioè l'atto normativo fondamentale nell'ordinamento degli Stati Uniti che appunto garantisce il pieno accesso all'informazione e alla trasparenza per i cittadini americani. E il suo saggio, il saggio di Mannheimer, è esattamente una lettura in parallelo della legge italiana, quella del 90 che vi ricordavo, rispetto al Freedom of Information Act degli Stati Uniti, con l'idea che probabilmente avremo bisogno di prenderlo, modificarlo solo in parte, e di un governo che lo emanasse, ne facesse un disegno di legge con un Parlamento che lo approvasse anche in Italia. È così, Mannheimer? È così, direi, sì. Direi che anche tradurlo sarebbe comunque una cosa sicuramente migliore del non averlo proprio. Diciamo che l'esigenza di un FOIA nasce appunto da questo squilibrio tra pubblici poteri e cittadini, che dipende sostanzialmente dal fatto che l'onere di provare che un particolare atto insomma venga conosciuto da un privato cittadino è in Italia in capo al cittadino stesso. Quindi sostanzialmente io, per accedere a un atto amministrativo, devo dimostrare che ho interesse verso quell'atto, il che, come è facile capire, interesse significa gli interessi legittimi, sono quelli che si chiamano, esatto, nella scuola della grande diritto amministrativo del nostro paese. Dico grande perché nel 1865, quando nacque la giustizia amministrativa all'atto della riunificazione dei codici italiani, non c'erano paesi avanzati. All'epoca fummo all'avanguardia nell'introdurre nell'ordinamento, per questo nacque la giustizia amministrativa dell'Unione, sia pure monarchica, con cui nacque l'Italia, perché apriva alla tutela degli interessi legittimi. Gli interessi legittimi sono quelli di coloro i quali sono comunque, oggi si direbbe, gli stakeholder, su coloro sui quali ricadono gli effetti degli atti della pubblica amministrazione. Solo che nel 1865 era un passo avanti. Oggi limitare l'accesso all'identificazione del diritto alla conoscenza dei particolari di un atto pubblico solo per coloro che ne hanno direttamente un interesse significa tagliare fuori tutti i cittadini. Esatto, sì, non solo perché appunto l'interesse dei cittadini a conoscere un atto deve essere proprio per legge diretto, concreto e attuale, ma soprattutto deve essere motivato. E chiaramente le eccezioni imposte dalla legge del 1990 che regola appunto l'accesso agli atti sono molte e soprattutto generiche, quindi è molto facile per un'amministrazione pubblica dimostrare che, per esempio, l'accesso a un determinato atto lede la privacy oppure lede altri interessi che sono appunto molto molto generici. Per esempio, tanto per rinfrescarvi, farvi un po' incazzare, cari ascoltatori, la RAI, quindi difficile immaginare una società più pubblica della RAI, quella del servizio pubblico radiotelevisivo. La RAI a tutt'oggi, per tutti i suoi dirigenti, non ci dice quant'è la retribuzione di ogni singolo dirigente per privacy. Quindi noi abbiamo la cifra generale del monte retribuzioni, ma da anni, malgrado le richieste, e la RAI ci ride in faccia quando chiediamo di sapere chi prende quanto, perché dice: no, cari noi, è la privacy. È giusto? Secondo me non è giusto, no? Quando si paga con il canone i due terzi del bilancio della RAI, però intanto la privacy. E come funziona invece negli Stati Uniti? Qual è il criterio con cui il Freedom of Information Act garantisce il diritto all'accesso dell'informazione? Diciamo che appunto il Freedom of Information Act statunitense, ma anche quello poi trasposto in numerosi ordinamenti occidentali, più di 100, è basato proprio sull'inversione dell'onere della prova, cioè il cittadino parte che ha comunque diritto all'accesso a tutti gli atti della pubblica amministrazione. Se la pubblica amministrazione ritiene che esistano valide ragioni, chiaramente predeterminate per legge, molto specifiche e tassative, può limitare l'accesso. Ma quando dico che queste limitazioni sono poche e tassative, intendo che lì è una cosa presa molto seriamente, nel senso che è successo per esempio nella storia che un giudice americano sostenesse che non solo per il fatto che un documento fosse parte di un procedimento penale e fosse detenuto dall'FBI, questo costituisse una prova del fatto che potesse essere inaccessibile. Quindi non so come spiegarvi, credo che appunto il parallelismo con gli stipendi dall'idea della distanza, esatto, incolmabile, per esatto, così dire, perché non stiamo parlando di avere accesso a particolari linee elaborate sulle dottrine strategiche per l'uso dei servizi segreti in caso di conflitti, insomma, stiamo parlando di una roba che è come si spende il denaro del contribuente. Ora, un particolare curioso, questa Freedom of Information Act americano, data agli anni sotto Johnson e Kennedy, in cui l'America cambia, si apre la tutela dei diritti, perché di metà degli anni 60, però nella storia degli ordinamenti occidentali il primo atto che introduce questo pieno diritto per tutti i cittadini, pensate, e dell'epoca dei lumi, dell'illuminismo, perché la Svezia, esatto, nel 1700 e 60 è qualche cosa, per capirci quanto siamo indietro, in termini italiani siamo indietro di questi 300 annetti quasi, e vabbè, detto questo, nell'ordinamento attuale, al di là di questo differente criterio fondamentale per avere accesso alle informazioni, in realtà quali atti vengono esclusi in Italia tassativamente dal fatto di poter essere resi pubblici? Beh, nel senso, allora, oggi tutti gli atti, per esempio, attinenti a procedimenti tributari, attinenti a in generale anche semplicemente atti strategici o atti che in qualche modo propedeutici all'attività legislativa, sono del tutto esclusi, e si tratta appunto di criteri molto generali, perché chiaramente definire un atto programmatico è del tutto discrezionale, quindi ogni singolo... Comunque il criterio, come avete capito, è discrezionale, quindi lo Stato può decidere quando vuole che non avete, anche una volta che avete dimostrato il vostro diritto a chiederlo, lo Stato può dire no, noi non, per questa ragione, discrezionalmente, non vi rispondiamo. Ci sentiamo tra 60 secondi dopo l'informazione stradale. La versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati dopo l'informazione stradale, ci stiamo occupando in questa puntata di questo buco che esiste nel nostro ordinamento italiano, cioè il mancato diritto alla trasparenza, al poter pretendere l'accesso agli atti della pubblica amministrazione da parte dei cittadini senza dover dimostrare di essere coinvolti e interessati in quell'atto, ma come principio generale garantito dall'ordinamento. Nel nostro paese la legge del 1990 non afferma questo principio, negli Stati Uniti una legge di metà degli anni 60, il Freedom of Information Act, invece capovolge esattamente la definizione del diritto. Tutti i cittadini possono avere l'accesso e bisogna che lo Stato li metta in condizione di poter esercitare questo diritto all'informazione. Ecco, questa legge del 90, siamo qui con l'autore di un paper, di un approfondimento che potete trovare andando al sito dell'Istituto Bruno Leoni, www.brunoleoni.it. Lui è Giacomo Lev Mannheimer. Però questa legge negli anni, Giacomo, è stata più volte emendata. Molti governi si sono vantati di aver detto: ecco, vi diamo finalmente l'open access a tutti gli atti della PA. Però tutti questi interventi, anche gli ultimi governi, Monti, Letta e così via, in cosa si sono tradotti? Il punto esatto è proprio che non hanno rovesciato il principio di base per cui è il cittadino, scusami, a dover dimostrare il proprio interesse verso un atto, cioè sostanzialmente hanno obbligato sulla carta le varie amministrazioni a pubblicare i propri atti sul proprio sito internet, ma come capirete scrivere qualcosa su un pezzo di carta non è esattamente come renderlo vincolante, quindi... Però se questi obblighi poi fossero anche stati affiancati da sanzioni... Assolutamente, infatti il problema è proprio quello. Invece non sono state previste sanzioni, oltre al fatto che comunque spesso non è nemmeno dimostrabile se un atto esiste o meno, e che l'apparato pubblico italiano è talmente grande e variegato che è anche molto difficile effettivamente operare un controllo che adesso dovrebbe venire, appunto, dovrebbe intervenire l'ANAC nel controllare l'eventuale Freedom of Information Act che uscirà dal Parlamento, se mai uscirà, e che forse potrebbe essere, diciamo, l'organismo delegato a questa attività di controllo. Un altro esempio dei paradossi che derivano da questa mancanza di trasparenza nel nostro paese, ce ne siamo occupati un mese fa in una trasmissione, è previsto tra i tanti obblighi sulla carta per la trasparenza della pubblica amministrazione che ogni amministrazione, in questo caso centrale, dovrebbe valere anche per quelle periferiche, ma vi spiegherò perché poi per le periferiche non vale, ma ogni amministrazione centrale, quindi innanzitutto i ministeri, facciano un rapporto annuale che entro il termine della fine di marzo dell'anno successivo, facendo un bilancio degli oneri e delle semplificazioni amministrative introdotte a seguito dei propri atti nell'anno precedente. E un mese fa vi abbiamo dato atto del fatto che al 31 marzo il rapporto non c'era, è uscito a maggio e la maggior parte dei ministeri dichiarava un bilancio nullo, tra cui il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dichiarava che nel 2014 non aveva introdotto nessun aggravio amministrativo e non aveva alleviato alcun onere amministrativo. Naturalmente chiunque in ascolto capisce che si tratta di una presa per i fondelli da parte delle amministrazioni locali, poiché come per i ministeri non c'è nessuna sanzione a questo tipo. Naturalmente la cosa passa in cavalleria. È evidente che questo esempio ci dà proprio un pugno nell'occhio, perché capite che se il MEF, da cui esce tutta la legislazione tributaria, osa davvero scrivere una cosa di questo genere e nessuno fa un plissé, vuol dire che noi siamo peggio che sudditi. Ma nel caso in cui si dovesse proporre in Italia anche l'approvazione di un atto simile al Freedom of Information Act americano, Mannheimer, da quali rischi bisognerebbe guardarsi? Il problema è che viviamo, appunto, il nostro sistema pubblico è altamente proceduralizzato, quindi il rischio insito in un Freedom of Information Act sarebbe certamente quello di un'ulteriore burocratizzazione che appunto che andrebbe in realtà a fare il contrario di quello che il FOIA si propone, cioè rendere più semplice la vita per il cittadino nei confronti degli atti amministrativi, e questo è sicuramente un difetto congenito su cui dobbiamo stare assolutamente attenti quando il Parlamento affronterà mai l'esame del Freedom of Information Act. Ma se guardiamo alla storia degli altri paesi, cioè provvedimenti di questo tipo sono nati perché, e questo naturalmente per pensare a che cosa bisogna immaginare in Italia per avere qualche cosa di simile alla legge americana, sono nati perché c'erano esplosioni di protesta pubblica legate a vicende segrete coperte di riservo da parte della politica, perché c'erano dei movimenti per i diritti civili che ne facevano un punto di svolta rispetto a come era opaco e lo Stato in precedenza. Cioè la mia domanda è questa: secondo lei, Mannheimer, bisogna aspettare che sia il Movimento 5 Stelle che fa in teoria della trasparenza online, dico in teoria perché poi se vedete la loro vita intera dei partiti degli altri. Ecco, vabbè, però oppure da quale parte della politica italiana può nascere davvero una sensibilità? Perché se dovessi giudicare in quello che vedo alla mia età, non ce n'è a destra né a sinistra, tutti coloro che stanno al potere pro tempore in realtà se ne beano molto della mancanza di trasparenza. Da qualche mese appunto è attivo questo gruppo di associazioni e organizzazioni che appunto promuovono l'adozione di un FOIA in Italia, che si chiama FOIA for Italy, e probabilmente anche grazie al loro lavoro è stato presentato un emendamento alla legge di delega, diciamo al decreto Madia sulla pubblica amministrazione, proprio appunto qualche giorno fa, che è stato approvato all'unanimità. Ora è molto presto per cantare vittoria, perché si tratta semplicemente di un emendamento di delega, quindi il governo ha le mani assolutamente libere per diciamo, riempire questa delega. Cioè non è una delega che inchioderebbe il governo a prendere FOIA americano come modello? Assolutamente no, è una delega in bianco per l'adozione, diciamo, di un sistema di trasparenza degli atti pubblici, ma appunto da lì a arrivare a un risultato anche solo lontanamente paragonabile a quello americano, la strada è lunga e tortuosa. Quindi mi pare che lei è pessimista come me, se dovessi essere sintetici. Oggi sono pessimista, però devo dire che insomma non si sa mai, la speranza è l'ultima. Non si sa mai, d'accordo, cioè questo è, per carità di Dio, mai escludere una possibilità, però in concreto resto pessimista. Se pensate, ripeto, alla mole di circolari settimanali che oggi in Italia, in violazione dell'articolo 23 della Costituzione, disciplinano l'ottemperanza del dovere fiscale, in piena patente violazione dell'articolo 23 della Costituzione, malgrado che la giurisprudenza costituzionale abbia naturalmente dato ragione allo Stato, però nell'articolo 23 c'è scritto che gli obblighi fiscali possono venire solo da una riserva di legge assoluta come fonte giuridica. Noi siamo alle circolari, ecco. Però in un paese come questo in realtà la sensibilità per organizzare proteste di massa per la piena trasparenza non si è praticamente quasi mai vista, come poi dire. Sì, in più credo che ci sia anche un problema, diciamo, esogeno, cioè che fino a che la nostra pubblica amministrazione non sarà almeno un pochino più digitalizzata, è molto difficile aspettarsi che effettivamente un meccanismo paragonabile al Freedom of Information Act possa venire utilizzato dai cittadini, diciamo, in una maniera facile per i cittadini, e quindi non semplicemente come procedimento scritto sulla carta, perché chiaramente è impensabile un Freedom of Information Act in cui poi il cittadino, per appunto esercitare i diritti che il Freedom of Information Act gli assicura, deve fare il giro degli uffici e degli sportelli dell'amministrazione. Altro esempio paradossale per dare, per così dire, attualità alla frase che ha appena detto in termini di principi Mannheim. Ricordate il mese prima delle ultime elezioni regionali, ci fu l'iniziativa che poi esplose il giorno prima del voto alle urne della lista dei cosiddetti impresentabili stilata dalla Commissione Antimafia guidata da Rosy Bindi. Ebbene, quando esplose la presentazione della lista il giorno prima del voto, tutti i partiti protestarono, a cominciare anche dal PD contro Rosy Bindi. Il motivo vero fu che la Commissione Antimafia del Parlamento, per poter sapere di tutti i candidati quali erano quelli con le pendenze penali, doveva interpellare direttamente ogni prefetto e ogni corte d'appello, cioè le diverse circoscrizioni giudiziarie. Ora, noi abbiamo speso negli ultimi 12 anni più di 6 miliardi per digitalizzare l'ordinamento giudiziario, ma ciascuna circoscrizione giudiziaria ha avuto la facoltà di scegliere i computer, i server, i programmi e i software, cioè tra loro non parlano, e quindi la commissione parlamentare ha dovuto aspettare le comunicazioni scritte di ogni prefetto e di ogni circoscrizione giudiziaria. Neanche lo Stato riusciva a saperlo, figuriamoci naturalmente i contribuenti. Da questo punto di vista, secondo lei, Mannheimer, c'è forse qualche pezzo di Stato che potrebbe fare più prima? Cioè, le autonomie non dovrebbero essere quelle su cui facilmente più attendersi che la gente si incazza e chiede? Ma in teoria sì, anche perché appunto ci dovrebbe essere una vicinanza non solo fisica alle amministrazioni degli enti locali. Tuttavia, sino ad ora, ci sono ovviamente esempi virtuosi, però è anche vero che in assenza di una legislazione compiuta a livello nazionale, il problema è sempre lì: l'accountability della pubblica amministrazione è difficile che nasca da singole realtà, o comunque se anche nasce da singole realtà difficilmente si allarga a macchia d'olio verso altre realtà. Quindi lei è più per una soluzione nazionale? Finché il nostro federalismo sarà un federalismo solo sulla carta e anzi spesso semplicemente funzionale a nuove spese, a nuovi sprechi, sì, sarà difficile che sia una singola realtà locale a guidare la transizione verso una maggiore trasparenza. Io e concludo qui ringraziando Giacomo Mannheimer, invitando tutti a leggere il suo paper sul perché ci voglia un FOIA per l'Italia, questo è il titolo. Io mi sarei aspettato che da qualche parte in Italia almeno i contribuenti, di fronte alla TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili che pagate con criteri patrimoniali sulle vostre case, che da qualcuno da qualche parte in Italia protestasse dicendo: la tassa sui servizi indivisibili, dovete dirci quanto costa quei servizi e bisogna pagarli a tariffa perché vogliamo che ci sia una gestione economica. Invece nessuno in Italia, nessun comune ha organizzato una protesta contro una tassa che è per un servizio, quindi si dovrebbe pagare a tariffa, tassata secondo criteri patrimoniali e non di costo economico trasparente. Perdonatemi, la colpa è anche nostra se l'Italia resta una repubblica oscura rispetto alla Svezia, che ha introdotto questo diritto nel 1760. Sei, continuate su Radio 24, grazie a Lev Mannheimer e appuntamento con me domani. Nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24.